Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza di Maria Piera Ceci. Oggi vi vogliamo raccontare una storia brutta, molto brutta, che riguarda una città, Crotone, che riguarda migliaia di ragazzi e di bambini e quindi di studenti. Black Mountains, così l'avevano chiamata l'inchiesta che ha portato alla luce una realtà davvero assurda. Dal 1999 residui tossici, in gergo tecnico Cubilot, dell'ex Pertusola Sud, un'azienda della zona, non venivano smaltiti come avrebbero dovuto, ma venivano utilizzate, pensate un po', nella pavimentazione di opere edili anche pubbliche come parcheggi, case, centri per anziani e naturalmente scuole. Naturalmente decine di persone sono state denunciate, anche due prefetti fra questi. Due le scuole che sono state chiuse perché nei loro pavimenti c'erano sostanze tossiche, sostanze che i bambini e gli studenti hanno inalato per anni senza che nessuno dicesse niente, con questi risultati. Nei corpi di questi bimbi e ragazzi ci sono sostanze pericolosissime, come accertato da un'indagine di Sebastiano Andò, preside della facoltà di farmacia dell'Università Calabra e perito nell'inchiesta Black Mountains. Ha esaminato un campione di 290 studenti. Beh, dall'indagine è venuto che la popolazione scolare esposta ad fonti contaminanti presentava a livello delle matrici biologiche esaminate, nel caso specifico del siero ematico, dei livelli di metalli pesanti superiori a quello che era il livello massimo riscontrato nei campioni di controllo. I metalli in questione erano il cadmio, ad esempio, ed il nickel. Ben il 70% di soggetti avevano valori superiori al valore massimo riscontrato nei soggetti di controllo, ed per quanto riguarda la fascia scolare secondaria di secondo grado c'erano livelli di arsenico e anche di cadmio superiori per il 76% ai valori massimi riscontrati nella popolazione di controllo. Che cosa significa avere questi metalli pesanti nel sangue? La caratteristica di questi metalli pesanti è proprio quella della biopreservazione, della bioaccumulazione in alcuni parenchimi d'organo, in cui possono condizionare quindi la funzionalità importante di apparati come quello renale soprattutto. Siamo solo a livello di potenziale rischio o avete già riscontrato che comunque ci sono stati bambini e ragazzi che hanno manifestato? Non c'è allo stato attuale nessuna emergenza tossicologica documentabile. Cosa devono fare adesso questi bambini e questi ragazzi? Devono sottoposti a questi esami periodici che i presidi territoriali competenti dovranno predisporre in modo concertato con la comunicazione con la comunità scolastica, ma anche con i vari soggetti istituzionalmente coinvolti presenti nel territorio. Cioè devono sottoporsi a dei controlli e basta, o c'è un metodo per ripulirli questo sangue, diciamocelo? No, perché questo si fa quando ci sono emergenze tossicologiche acute che allo stato attuale non sono riscontrabili. Possono stare tranquilli i genitori? Allo stato attuale sì. Alcuni parlano di una maggiore incidenza di tumori. Ma guardi, il correlato con la patologia tumorale è un correlato allo stato attuale più emotivo che reale, nel senso che non disponendo di un registro di tumori non possiamo realmente verificare l'incremento significativo di della patologia tumorale per l'arco temporale incriminato. Cioè, insomma, non possiamo escluderlo, ma non possiamo neanche verificarlo. Certamente. Nessuna emergenza tossicologica acuta, dunque, anche se io non sarei tanto contenta che i miei figli avessero tutte quelle belle sostanze nel loro sangue. Comunque due, dicevamo, le scuole chiuse, la primaria San Francesco e l'Istituto Tecnico Commerciale Lucifero, dove comunque per anni i ragazzi hanno studiato. Ci siamo fatti una chiacchierata con la dirigente della primaria, Eugenia Garritani, che non si era assolutamente resa conto, ci racconta, di quello che c'era sotto la scuola. No, assolutamente, perché era una scuola nuova consegnata dal comune di Crotone nel 2001. È un edificio bellissimo con un grande giardino intorno. Quando è che è cominciata a venire fuori la questione delle sostanze pericolose utilizzate nei sottofondi? La questione è andata proprio all'improvviso con l'indagine Black Mountain, la Montagne Nere della Procura, perché noi a settembre dello scorso anno proprio ci siamo trovati con la scuola, con i bambini dentro e la polizia, i carabinieri che hanno circondato la scuola e hanno affisso questi cartelli di sequestro di suolo e di sottosuolo. Cioè all'improvviso hanno sequestrato la scuola sì, mandato tutti a casa. Ma non hanno neppure sequestrato la scuola, c'è stato un momento di panico, perché la scuola è stata proprio letteralmente accerchiata dalla polizia. Con i bambini dentro? Con i bambini dentro, e si temeva che fosse successo qualcosa di grave, che ci fosse una bomba, non lo so. E invece sono stati affissi questi cartelli di sequestro. Scusi, ma non l'avevano avvisata che avrebbero fatto questa cosa? No. E invece poi si è capito che insomma il sequestro era necessario, perché era un'altra cosa, e ci siamo resi conto che si sospettava che nel sottosuolo del giardino della scuola era stato seppellito all'epoca della costruzione, insomma, del cubilot. Ecco, più che un sospetto è una certezza, visto che uno studio, il professor Andò, ha dimostrato che comunque nei ragazzini ci sono dei metalli pesanti nel sangue, assolutamente non dovrebbero esserci, insomma. Allora, questo comunque lo studio non dà le correlazioni, perché comunque l'ambiente è un ambiente inquinato. Ecco, lei a quel punto ovviamente i ragazzini li ha dovuti spostare in altre scuole. Che cosa è successo lì a scuola? Il sindaco, noi abbiamo riportato gli alunni nel plesso centrale, ma ci sono i doppi turni a settimane alterne per i bambini di seconda, terza, quarta e quinta elementare. E l'amministrazione adesso sta cercando dei locali alternativi. Come ha fatto a spiegare alle famiglie, ai bambini, ai ragazzi quello che è successo? Perché non è facile spiegare, perché c'è molta ansia, molta emotività, quindi comprensibilmente direi, no? E i mass media dovrebbero dare delle informazioni più razionali invece di aumentare questo stato di ansia. Mi scusi, non è colpa dei giornalisti che dicono, non è colpa se i giornalisti dicono come me che ci sono delle concentrazioni di metalli pesanti nel sangue a livello allarmante. Bisogna dare un'informazione più corretta, perché la correlazione, cioè questi metalli sono seppelliti a più di 2 metri sotto il piazzale, almeno dalle analisi dell'ARPACAL non ci sono elementi per quanto riguarda l'aria, e non ci sono elementi per quanto riguarda i locali proprio scolastici. Per adesso. Scusi, ma lei non si è spaventata, non si è arrabbiata anche, no? Per aver dovuto tenere tutti questi anni dei bambini in un luogo non sicuro? Ma credo che, insomma, io non esprimo questa preoccupazione così grande. Cioè, la preoccupazione è adesso dare tranquillità ai bambini solamente, perché credo che... Non solo la tranquillità, ma anche ambienti sani, forse. Ecco, evitare il panico, perché i bambini credo che siano quelli più traumatizzati da questa situazione. Queste dunque le parole della dirigente di una delle due scuole sequestrate, parole che a me suonano un po' fuori luogo e devo dire stupidamente tranquillizzanti, visto quello che è successo e visto quello che i ragazzi si sono ritrovati nel sangue, come se il problema fosse solo l'allarmismo e non l'allarme stesso. Ora un argomento più lieve, in un'epoca di incertezze nel mondo della scuola, che almeno ce ne sia una di certezza, quella del voto. Sì, perché fra 4,5, 5 più, 6 meno meno, non si capisce davvero se una sufficienza è tale, se una sufficienza è veramente una sufficienza. E allora c'è una scuola che già da tempo ha detto basta, il 5 sia davvero un 5, il 6 un 6. Il preside del liceo linguistico e classico di Cremona, Pietro Bellisario, ci racconta come sta andando. All'inizio, nel primo periodo, certamente ha creato qualche problema sia per i docenti sia per gli allievi, e quindi non escludo che nei primissimi tempi ci fosse un'applicazione al ribasso, però posso garantire che all'inizio del secondo quadrimestre siamo andati a regime e il problema è sicuramente stato superato, cioè i docenti hanno... Ma perché lei ha pensato di mettere al bando il mezzo voto? Insomma, che se è 5 e 5, se è 6 e 6, ma guardi, basta con i 6 meno meno e 5 ritengo, e mezzo? Perché io ritengo che un genitore e un docente debbano avere una sicurezza del voto che il docente dà e l'allievo riceve. E ho fatto anche questo esempio, ossia... Io do 4,5 oppure do 5,5, io direi che il genitore o l'allievo avrebbero titolo a poter pensare che è un voto più vicino al 6 nel caso del 5,5, più vicino al 5 nel caso del 4,5. Se i criteri di valutazione vengono definiti in un modo diverso, è chiaro che il genitore ha un voto più sicuro, cioè si trova davanti a un voto che è di sufficienza oppure oltre la sufficienza, quindi 7-8, o che è insufficiente, cioè non è nel limbo, non è questo voto per cui io do un'interpretazione e il docente ne dà un'altra. Insomma, quindi, dà delle false illusioni, dà delle false mezzo illusioni voto. E soprattutto crea proprio delle situazioni di non chiara lettura sia per chi lo dà sia per chi lo riceve. Insomma, in una scuola che in questo momento sta vivendo un periodo di grande incertezza, che ci sia almeno la certezza del voto, se è 5 ecco. È 5, se è 6 è 6. Esatto. Se volete riascoltare questa trasmissione potete farlo in podcast andando sul sito di radio24.it. Ci risentiamo sabato prossimo come sempre alle 12:45.